Veniamo, parli, grida, smadonni, ci rompi i coglioni, fai. E a noi? Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Difesa della Lazio, Carlos Bacca, primo tiro, primo gol. Sì, forse sì, anzi togliamo il forse perché viene dopo, oltretutto dopo una vittoria esterna contro una squadra difficile da affrontare, contro una squadra di giocatori che è importante, quindi sì, perché è venuta un po' anche con maturità di squadra, abbiamo un po' sofferto anche dentro la partita, non abbiamo fatto sicuramente una partita spettacolare in termini di occasione, ma abbiamo fatto una partita vera, una partita secondo me superiore all'avversario e vinto con merito. Dentro per Niang che vuole chiudere il triangolo, fallo di mano di Radu, calcio di rigore. Maglie! Niang! 2-0. Molto importante questi tre punti e anche questa prestazione perché stiamo crescendo ogni partita e un po' inizio eravamo un po' larghi in campo, non abbiamo messi bene, ma poi dopo penso che abbiamo fatto bene. Beh, un po' di effetto vedere il Milan secondo in classifica in quelle posizioni in cui non lo vedevamo da anni. Pierluigi Pardo, buongiorno. Giorgio De Luca, il nostro autore che è primo in classifica con 10 punti con il suo Napoli. Giorgio, è inutile che fai gli scongiuri. Non ti è inutile che fai le corna. Stasera me lo porto a vedere il Napoli. Lo porto proprio come un padellino minore. Lo so, domani siamo al Salone Nautico di Genova e vediamo come starà Giorgio De Luca. C'è Filippo Aureggi in regia che di solito insomma dribbla questa trasmissione con grande piacere perché lui è un appassionato soltanto di motori e Formula 1. Alvisa Falzone invece in redazione deve stare lì e quindi ci sta. Senti, il Milan che effetto ti fa? Ma l'effetto di una squadra che sta trovando un suo equilibrio, però siamo chiaramente all'inizio, la classifica è molto corta, la sconfitta della Juventus. Pardo, non fare il democristiano. No, non faccio il democristiano. Se vuoi sapere se secondo me arriva tra le prime tre, ti dico che penso no. Nel senso che penso che ci siano quattro squadre superiori al Milan. E penso che la Lazio sia grosso modo sullo stesso livello del Milan, però intanto sta facendo delle cose razionali e quindi è giusto dare atto a Montella che... Quanto vale Montella in questi risultati del Milan? Vale, anche se poi sappiamo per esempio che la partita di Genova con la Samp è stata una partita in qualche modo anche condizionata dagli episodi. Sì, sicuramente il Milan è stato un po' fortunato, così come era stato probabilmente sfortunato con l'Udinese, non meritava probabilmente di perdere. Diciamo che se avesse pareggiato sia con l'Udinese che con la Samp non sarebbe stato uno scandalo. Sono tutte partite sul filo, mi sembra. Il Milan non ha in questo momento una superiorità tecnica che la possa portare a vincere, diciamo, di grande tranquillità. Nessuna partita. Quella di ieri forse è la vittoria più netta del campionato, sicuramente rispetto al match all'esordio contro il Torino e alla vittoria di Genova. Però insomma sono segnali di un ambiente che arriva dalla stessa parte, è compatto, che prova della pressione enorme, perché non va dimenticato che il problema delle milanesi è soprattutto questo, no? Che non vincono da tanto tempo, che hanno una grande storia, delle grandi aspettative da parte dei tifosi, e quindi tutto diventa più complicato, diventa più difficile, soprattutto se non si parte bene. Milan non era partito benissimo, pian piano si sta ricostruendo un po' di questa, sì, di questa credibilità. L'importante è non esagerare, cioè non pensare che questa sia la dimensione del Milan, perché secondo me, come dicevi tu, questa non era la dimensione del Milan. Juventus, Juventus, Napoli, Roma. Ha una partita in più innanzitutto, anche dopo forse, 5 giornate. Forse Fiorentina, sono tutte più forti del Milan. Ma no, Fiorentina forse no, direi di no. Secondo me il Milan è in seconda fila, nel senso che dopo la Juve, o meglio in terza fila, perché io Juve metto ancora un gradino avanti a tutti. Poi ci sono, secondo me, il Napoli che è il più vicino, poi ci sono Roma e Inter diciamo in seconda fila e poi il Milan è là. Quindi è chiaro che facendo un'ottima stagione potrebbe anche riuscire a inserirsi, però non mi sembra una favorita per un posto fra le prime tre. Anche. No, però detto non questo, mi sembra favorita per un posto fra le prime tre, mi sembra una squadra in lizza per la Champions League nel secondo gruppo. Che è quello che conta. Poi ci sono anche storie di false documentazioni, di bilancio, falsi pagamenti, ma di tutto questo parleremo più tardi con Marco Bellinazzo. Intanto diteci la vostra, 800240024 è il numero verde. Io ti chiedo, prima del traffico, cosa ne pensi delle dichiarazioni di Allegri quando dice che la partita della Juventus con l'Inter è stata una delle più brutte degli ultimi 100.000 anni? Guarda, ieri ne parlavamo con Galeone e pure lui non le ha capite, quindi diciamo, se non lo capisce Galeone, che è una sorta di interpretazione autentica, un grande amico di Allegri, quello che capisco io. Credo che l'ipotesi più probabile è che fosse una provocazione. La verità è che l'Inter ha fatto invece una partita molto buona, molto tosta, di grande forza. Ma contro la Juve. Ma io nell'Inter ci credo. No, ma l'Inter sta costruendosi un percorso, sai, vedi, non è che il calcio è liquido, qua il calcio è proprio ai riforme, è gassoso, perché se in tre giorni uno passa dalla depressione totale per la sconfitta in casa con la Poel a tornare a essere in corsa per il titolo, ma questo ci sta, Ma non è in corsa per il titolo l'Inter, dai, non vediamo fumo. No, io non penso che sia in corsa per il titolo, io penso che sia la quarta forza del campionato che può diventare la terza. Questa è il mio pronostico, la mia Cassandra, la quarta che può diventare la terza. Anche la mia, anche la mia. Senti Pier, ci fermiamo un attimo. Intanto, dopo aver messo tutta questa carne sulla griglia, 800240024, ci fermiamo un attimo, traffico, poi torniamo a parlare di Milan. Tutti convocati. Qui altro che ciupiti di Popovic. Tutti convocati. L'obiettivo è quello di tornare in Europa. La partita è stata complicata perché loro comunque giocando praticamente uomo a uomo a tutto campo diventa anche difficile trovare le trame di gioco e per questo è una partita un po' bloccata, però credo che l'abbiamo affrontata con la testa giusta a parte i primi 10 minuti. Bacca è un grande goleador, ha fatto gol in tutte le squadre in cui è stato. Siamo contenti di averlo in squadra, speriamo ne faccia altri, ci sono aspetti su cui deve migliorare, ma come tutti. Questo era Riccardo Moltolivo. Allora, secondo me Ulisse equivoca, che scrive grazie, grazie, grazie, prima Inter, seconda Juve, terzo Milan, quarta Roma, quinto Napoli, Inter campione d'Italia 2016-2017. Secondo me questa è abbastanza una boutade e un'esagerazione. 800240024 è il numero verde. C'è un ascoltatore che ci scrive, fateci la schedina, tra poco la facciamo, io e Pardo. Intanto sì. Saluto Stefano Aranio, buongiorno. Ciao. Ciao Stefano. Buongiorno, ciao a tutti. Ciao, vedere Milan lì davanti, lì con le prime, lì con quelle che lottano per il titolo, una posizione che il Milan non può tenere, secondo me. E siamo tutti d'accordo, però è comunque qualcosa di interessante. Sicuramente, visto poi i trascorsi, il passato del recente del Milan, certamente fa strano, anche perché come organico non è attrezzato per questo, però la partita di ieri ha messo in evidenza qualche giovane importante, ancora non il gioco che sicuramente vorrà dare al Milan Montella, anche perché hai presi 3 punti, però l'approccio non è stato ottimo, solo un erroraccio di sì, però mi permetti, non, è abbastanza questione di rana caprina dopo le stagioni che ha vissuto il Milan negli ultimi anni, no? Sì, sì, quello sì, però no, dico comunque, ieri il Milan, grazie a un errore di Parolo, ha fatto il gol con Bach e poi da quel momento lì ha fatto sicuramente un po' meglio, però c'è da migliorare perché staremo a vedere Montella con l'organico che ha, se riesce a dare quel gioco spumeggiante come ha saputo dare alla Fiorentina, anche se la qualità era un pochettino differente. Rimane il fatto che comunque in difesa non prendi gol, Paletta, che era il più discusso anche dal sottoscritto, che non pensava facesse così, sta facendo benissimo, Calabria un ottimo giocatore, si è visto ieri, perciò bisognerebbe puntare di più su, sì, io mi domando giovani. Perché era sparito l'anno scorso dalle rotazioni. Bravo. No, anche quello, perché Mihajlovic ha avuto il fiuto di mettere in campo, pur giocando una grandissima partita, poi non si è più vista, non so perché non si sia data comunque continuità a questo ragazzo che secondo me ha tutte le qualità per poter fare bene. Cosa ne pensi, Pardo? Penso questo, che sono d'accordo, insomma, una crescita, non mi sembra un'esplosione quella del Milan, mi sembra una crescita lenta, costante, poi adesso c'è appunto questa Fiorentina-Milan che è già un bel testo. Però ragazzi, allora, togliamoci subito un equivoco, Carlos Bacca, perché sì. Va in panchina, perché va in campo, perché si crede in lui a scartamento ridotto? Cioè, io questa è una delle cose che nella stagione del Milan non capisco. Non la capisco neanch'io. Quindi, se vuoi, mi arrendo subito. È un attaccante che ha fatto tanti gol, che negli ultimi anni ha sempre fatto... Ma anche nell'ultima stagione, magari anche non ha, ora. Magari non ha, diciamo, la forza, il brand, la personalità e secondo me anche la partecipazione al gioco della squadra per sembrare un predestinato. Sicuramente... sembra meno di Higuain ovviamente, ma anche meno di Icardi, però è uno che gol li fa, quindi anch'io gli darei più fiducia, anche se poi da questo punto di vista sappiamo che è stato anche comprato un giocatore interessante come la Padula e anche lui probabilmente idealmente meriterebbe qualche occasione come l'ha avuta a Genova, ma insomma anche per poter fare un po' di rodaggio. Non so se sia stata per il giocatore la scelta migliore quella del Milan, al di là del fatto che comunque non è facile dire di no al Milan, però forse un tipo di soluzione un pochino più con più possibilità di impiego in Serie A dopo la bella stagione che ha fatto l'anno scorso forse sarebbe stata preferibile, ma insomma il campionato è lungo, la stagione è lunga, cioè. Io credo che Bacca però meriti, cioè, sia un punto fermo di questa squadra. Beh, esattamente Pier, come lo hai in valore assoluto, in valore assoluto, in una squadra che non è il massimo della vita come il Milan, e siamo tutti d'accordo, un attaccante che comunque ha una capacità realizzativa come quella che ha Carlos Bacca, viene messo in discussione. Ed è questo che io sinceramente faccio fatica a capire. Però c'è Stefano, da dire che per caratteristiche sicuramente non è un giocatore che faccia giocare bene la squadra, perché lui è veramente un uomo. Perché Icardi fa giocare bene la squadra? No, ma Icardi, almeno contro la Juventus, ho visto anche che viene spesso, cioè almeno ultimo Icardi, ho visto in questa partita, è venuto un pochettino più fuori a giocare. È normale che come caratteristiche sono differenti, no? Perché anche Icardi non è questo giocatore che ti faccia giocare benissimo, però è molto più forte magari di testa, e l'altro invece è un contropiedista nato, perciò Bacca ha bisogno di campo davanti per sfruttare le sue caratteristiche. Ma nel gioco di Montella spesso, quando si gioca con i tre davanti, le due cosiddette mezze punte, la punta centrale deve lavorare molto per far sì che il gioco sia molto fluido. Il problema grosso è che questo Bacca spesso e volentieri non si trova nella posizione giusta per far rendere gli esterni come vorrebbe Montella. Però è anche vero che andiamo a vedere, la sbatte dentro. No, andiamo a vedere poi lo score, è sempre Bacca quello che... il mezzo errore che fanno te la butta dentro, perché a tu per tutto il portiere ha una percentuale realizzativa impressionante. Ho preso Wiki perché non mi ricordavo i numeri a memoria, quindi ho preso Wikipedia, ce l'ho qua davanti. Lui è sempre stato in doppia cifra in tutta la sua carriera, Certo. Sì, ma io anche senza Wiki me lo ricordavo piano. No, ecco, io mi ricordavo un numero impressionante di gol delle ultime quattro stagioni, che è 49-69, 97 gol negli ultimi quattro anni. Infatti la media per me era 24,25 gol di media. Va bene. E allora perché un giocatore con queste medie realizzative viene messo in discussione in una squadra che non è da titolo come il Milan? Lo so, il problema è che purtroppo sto Milan con caratteristiche e qualità tecniche magari che non possono risolvere tutti i problemi del Milan, quando lui non riesce a buttarla dentro è un uomo in meno, perché non lavora né senza palla né con la palla, perciò il problema grosso di Bacca è quello che tutte le partite, per poter rendere e far sì che il nome di Bacca spicchi, è quello di buttarla dentro, perché poi nell'economia del gioco è spesso assente. E comunque l'anno scorso ha fatto 43 partite su 43 nella era un altro modo di giocare, comunque. Era un altro modo di giocare, voglio dire, anche quest'anno è sempre presente. Stiamo parlando sicuramente di un giocatore che io sono d'accordo con quello che dice Carlo, cioè penso che ci sia che sia un giocatore che goda di non grandissima stampa e che non, nonostante i gol, ma non di non grandissima fiducia anche all'interno dell'ambiente. Pierluigi, sì, esatto, esatto. No, ma questo è vero, perché è stato sul mercato per tutta l'estate, perché l'avrebbero ceduuto volentieri, perché, Però questo forse anche perché per fare cassa, però questo anche perché era uno dei pochi che aveva veramente mercato, quindi le suggestioni che abbiamo letto quest'estate sicuramente raccontavano di una fiducia da parte del Milan nei suoi confronti che non era proprio del 100%, però è anche vero che era un'opportunità di fare cassa quella anche. Ma era più che altro anche lui la volontà sua di poter andare a giocare magari in una squadra che potesse dare più risalto. Poi infatti ha detto no al West Ham, che era l'unica società ha cercato. E allora, questo è anche curioso, Stefano. Eh sì, è curioso anche. È curioso perché comunque è un giocatore di, cioè, volendo guardare i risultati con Siviglia, con le coppe vinte, con i gol fatti in Spagna, dovrebbe essere un giocatore di prima fascia internazionale. Sicuro, però dipende anche come vuoi giocare. Il normale è che se te lo mettessi accanto ad un'altra punta, forse renderebbe di più, anche perché magari un giocatore diverso dalle sue caratteristiche che possa fare più movimento, e lui un uomo d'aria, allora sarebbe magari molto spalleggiato e il suo compito è molto più facile, tra virgolette, no? Perché comunque anche se non sei proprio nel vivo del gioco, c'è sempre la tua seconda punta. È come un po' la Juventus quando gioca Mandzukic e Dybala, il gioco passa tutto da Dybala, sì. E l'altro sfrutta certe situazioni. Ecco, la stessa cosa dovrebbe fare Bacca, anche se Bacca purtroppo col gioco di Montella spesso si trova a spalla alla porta, perché una squadra che cerca di proporre il gioco. e non è certo la sua posizione migliore. Esatto. Ragazzi, prima di salutare Stefano Eragno e di sentire la borsa, io ho un interrogativo da domandarvi che mi arriva via SMS 349-238-6666 e che è interessante dal punto di vista tattico. Bacca gioca bene solo con Niang. È vero o no? È un po' il discorso che faceva Stefano, cioè Bacca, partiamo da un presupposto: Bacca è un grandissimo contropiedista, cioè un giocatore che dà il meglio, e il gol di ieri in qualche modo lo dimostra, la facilità, cioè come fa sembrare facile il gol di ieri è proprio perché lui è veloce, ha una grande conduzione del corpo in velocità, una grande freddezza anche quando magari si è fatto 50 metri di corsa, e questo lo rende ovviamente l'attaccante perfetto per il contropiede. Quindi già questo non gli facilita il compito contro squadre che si chiudono. Se poi lo lasci da solo, hai ancora più difficoltà. Quindi secondo me sì, neanche un giocatore, tra l'altro, che comunque ha un bel disordine creativo dentro, ha una bella energia creativa, magari anche ancora un po' anarchico, ancora un po'... Ieri si è mangiato un gol incredibile sull'assist di Calabria, ancora delle ingenuità, però è sicuramente uno che possiamo dare una chance di errore comunque anche ai grandi goleador. Cioè. No, no, ma voglio dirti che certamente è un giocatore molto interessante, molto potenziale, di grande energia, e la risposta è sì, quindi insomma Niang sicuramente gli dà la mano. Sì, Stefano Eranio, cosa ne pensi? No, aspettando poi il miglior Bonaventura, che ricordiamoci che l'anno scorso è quello che si è trascinato il Milan, se l'ha preso sulle spalle per tutta, per tre quarti di campionato, ancora adesso ancora non l'abbiamo visto il miglior Bonaventura, anche se già ha aumentato un pochettino il suo rendimento, mi sembra un pochettino più svelto, anche se non è ancora a livello dell'anno scorso, però questo ti facilita, come si diceva, il compito poi di Bacca, perché sia Niang che lui sono gente che crea la superiorità numerica, e lì allora si aprono alcuni spazi dove questo giocatore può mettere in atto le sue qualità, certo, migliori. Perciò certo, anche questo penso che sia, vedremo anche Bacca un pochettino più nel vivo, magari quando cresce l'autostima e allo stesso tempo l'organico, perché in questo momento ieri abbiamo visto che ancora secondo me è lontano da quello che vuol vedere Montella. Grazie Stefano. Grazie a voi. Alla prossima. Ciao Stefano Eranio. Allora Pierluigi, tu stai lì, così come chiedo a Pier dalla provincia di Torino di stare lì, 800 24 00 24, e poi apriremo un capitolo che trovo abbastanza interessante sulle dichiarazioni di alcuni allenatori dopo l'ultima giornata. A dopo. Tutti convocati. Tra poco, nuove notizie. Pigia il coso rosso, grazie. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Convocati. Bardo, ci sei? Sì. Fai gli auguri a Claudia Schiattone, che compie oggi la bellezza di 27 anni. Ma no, ma che dici 27? Cioè al massimo 21-22, al massimo, Eh? Sono bravo a dire le bugie, no, la, ma in realtà la, di la nostra signora della domenica, le ho detto vieni qui. Vieni qui, è un ordine, non è voluto venire. Glieli facciamo noi. Eccola qui, compare 27 anni, Claudia Schiattone, tanti auguri. Auguri, auguri. Auguri, auguri. Auguri. Pier dalla provincia di Torino, faccia gli auguri anche lei. Auguri a Claudia Schiattone. Fantastico. Anche se a 21-27 anni va bene. 21-27, 27-21. Perché, anche se, perché noi questi qui molto giovani. Ho controllato la carta d'identità, passaporti, documenti, eccetera, eccetera. Quindi sono davvero 27. Dica, Pier. Niente, stamattina ero a prendere il caffè in un bar a Saluzzo. Io premetto, sono juventino. Sì. Mamma mia, quante gliel'hanno dette ad Allegri. Ma proprio bisogna cacciarlo, capisce niente. Oh, ma Juventini, vi ricordate dove eravamo noi quando siamo tornati su dalla Serie B? Grazie a Conte, anche a lui bisogna ringraziarlo. Al di là del fatto di essere tornati su, al di là del fatto di essere tornati su dalla Serie B, al di là del fatto di averci impiegato un tempo fisiologico anche con tanti soldi per la ricostruzione, poi Conte ha vinto quello che ha vinto, è una bandiera della curva juventina, eccetera, però alla juventinità Allegri proprio non va giù. Quindi potrebbe vincere anche 8 Champions League, però sarebbe sempre quello che è arrivato dopo Conte, che quindi... si prende meriti che non sono suoi. Sì, l'hai estremizzato il concetto, secondo me. Va estremizzato in questo senso. Esatto, Pier. Esatto. Però secondo me è una provocazione che ci sta, nel senso che poi è vero che qualcosa di fondo non quadra e te ne accorgi sempre nei momenti, nei rari, rarissimi momenti di difficoltà di questa squadra. Perché poi è difficile pure trovarle le crisi della Juve, no? Sappiamo, facciamo una roba in 30 secondi. Quando è arrivato sappiamo che c'era molta molto scetticismo. Poi ha vinto nel primo anno, ha vinto il campionato, ha vinto la Coppa Italia, ha perso la finale Champions League contro il Barcellona, è tutto bene. Lo scorso anno, lo ricordiamo ancora una volta, un po' sotto processo, giustamente, perché hai dato, dopo le prime 10 giornate, la squadra faticava. E certo, quando, certo. Però, insomma, sì, la sensazione è falsa partenza, sicuramente. La sensazione è che abbia qualcosa sempre da dover dimostrare, e invece, secondo me, non dovrebbe essere così, insomma, perché veramente ha parlato tutto questi anni. Poi, gli errori ci stanno, le scelte che non capiamo ci stanno. Ieri Galeone, secondo me, ci ha dato una notizia, a precisa domanda, ci ha detto che secondo lui in Europa si tornerà a 4. E se lo dice Galeone, secondo me in qualche modo lo pensa Allegri, e tra l'altro anch'io pensavo nel mio piccolo che lo pensasse, quindi scusandomi per il gioco di parole, io credo che lì ci saranno delle novità. E la stagione è molto lunga, che è un discorso banalissimo, ma secondo me c'è tutto il tempo per recuperare, e potrebbe anche essere, se la Juve riuscirà a interpretare bene questo momento di difficoltà, questa sconfitta, questa partita difficile, poi di una partita stiamo parlando, sarà una grande risposta. Stiamo parlando di una partita di metà settembre, quindi. Sì, contro l'Inter, che ha fatto che è un'ottima squadra, almeno come potenzialità e come talento, che ha fatto una grande partita, e ciò nonostante, insomma, la Juve se l'ha portata in vantaggio, la poteva anche portare a casa, no? Anche se l'Inter ha meritato, ci mancherebbe altro. Quindi questo in qualche modo ci racconta, per proprietà transitiva, la forza di questa squadra. Però, insomma, sono curioso. Per ora ci godiamo, diciamo, da spettatori neutrali, il fatto che il campionato al 21 settembre non è ancora finito. Viste le premesse che c'erano quest'anno, no? Con la Juve che ha comprato Higuain e Pjanic, cioè il miglior giocatore della seconda e uno dei migliori della terza, potevamo pure pensare che non ci fosse fare. Invece, 21 settembre il campionato è vivo e lotta insieme a noi. Senti, allora ti leggo un messaggio che mi è appena arrivato dalla Juventus, è un messaggio economico, poi ne parleremo anche con Marco Bellinazzo, che sarà con noi dopo le 15. Il consiglio di amministrazione della Juventus ha approvato il bilancio al 30 giugno 2016, fatturato 387,9 milioni, record storico della società e record italiano, utile 4,1 milioni di euro. Secondo anno di utile consecutivo, fatto che non ha precedente negli ultimi 15 anni, eccetera, eccetera, eccetera. Leggo un messaggio ufficiale che mi arriva dalla Juventus sul telefono. Paolo dalla provincia di Bergamo, poi cominciamo a parlare di cose interessanti con Emiliano Mondonico, che è già in linea. Paolo, buongiorno. Ciao, buongiorno. Niente, volevo dire, voi l'avevate già detto all'inizio campionato che poi il Napoli non era così male, l'Inter aveva un bel organico, io sono, certo, juventino, è verificato, è così, vorrei dire... È un bel campionato, mi sto divertendo, anche se sono juventino. Se la Juve partiva e vinceva tutto subito, mi sarei magari spento, non avrei avuto... È un bel campionato, sento interisti, milanisti, romanisti, napoletani, si divertono, è bello così, va bene. Poi voglio dire un'altra cosa agli juventini. Occhio, no, mi... faccio una cosa, saluti Mondonico. Buongiorno Mondonico, forza. Buongiorno a te, ma come mai un bergamasco juventino? Lo so, no, sono juventino e atalantino, però juventino atalantino, Gio Roter, famiglia Taia Medega. Ma in casa mia le passioni sportive si ereditano, perciò mio papà era juventino e io sono diventato juventino, però va bene, sono tifoso anche dell'Atalanta. Va bene. Va bene così. Emiliano, dimmi. Voglio farti sentire qualche voce e poi voglio un tuo commento, a partire da Allegri e da quella che lui ha definito la partita più brutta degli ultimi 30 anni, cioè quella che ha perso San Siro. Tra l'altro penso che Inter-Juventus di domenica sera è stata una delle partite più brutte a livello tecnico degli ultimi 30 anni. Quindi? Cioè, io non riesco a capire. Cioè, l'allenatore è il tattico. Allegri doveva dire è stata una delle partite tatticamente più brutte degli ultimi 30 anni. E allora eravamo tutti d'accordo, perché è chiaro che si assumeva tutte le responsabilità. Se tu dici è stata una delle partite tecniche più brutte, vai a inserirti nelle qualità caratteristiche dei singoli giocatori. Cioè, sono quelle, cioè, è come tenere alla Juve e all'Atalanta, no? Sono quelle situazioni che chiaramente analizzo, cioè, quando ci guardi dentro dici: ma cavoli, cioè, tu hai perso una partita, non hai fatto giocare Higuain, dillo tatticamente, in 30 anni è la prima partita che sbaglio, punto, a capo. Invece no, tecnicamente non dimentichiamoci mai che quando si parla di tecnica si parla di qualità individuale e non di qualità di squadra, e questo non mi sta assolutamente bene. Perfetto, traffico, torniamo subito. Tutti convocati. I love this game. Tutti convocati. Dunque, io ho diversi messaggi per Mondonico che è in linea con noi. Aspetta, un saluto al mitico Emiliano da Rivolta d'Adda, Angelino, sarà un suo amico di... Cugino. Ah, cugino. Angelino, cugino. Tu cugino? Rima, no? Angelino è mio cugino. Okay. Cioè, sì, Angelino. Poi mi arrivano messaggi, chiedete a Mondonico un parere su Mattia Valoti dell'Hellas, che però non credo che... Emiliano, che pure è un grande intenditore di calcio, conosca tutto. Oh, ha giocato l'Albino Lefe, quando io allenavo l'Albino Lefe. Vale. Chi l'ha fatto giocare e l'ha fatto cedere al Milan? Io. Sono stato io. Novara, Albino Lefe. Sapevo che il Milan veniva a vederlo, nell'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, ho messo Valoti. Al lunedì è stato acquistato dal Milan. E perciò, come non conosco Valoti... Oh, che ma dopo meraviglia. Vi devo dire delle cose interessantissime. Sei Remida. Veramente. Cioè, conosco tutto. Vieni a Tiki-Taka e... Ma se avete una penna in mano... Scrivete la classifica di domani. Dimmi. Vai. Domani la classifica è Juventus 12 punti, Napoli 11. Vai piano però. Napoli sì. 11. Sì. Roma 10. Roma 10. Inter 7. Va bene. Fermo. Allora mi avete provocato. Fermi che vi dico quella tra... Tolto a oggi altre tre giornate, cioè alla quarta giornata. Juventus 21. Allora, sì. Juventus 21, scritto. Napoli 18. Napoli 18. Roma 15. Roma 15. Inter 14. Inter 14. Ecco, adesso tutto nasce da questa notte. Giorgio De Luca, faccio firmare l'atto ufficiale. Io te lo firmo ufficialmente, è troppo facile. Cioè, voi parlate sempre prima e dopo. Bisogna dire prima le cose come vanno, perché dopo le sappiamo tutti. Io, dove nasce questa? Stanotte avevo male ad un orecchio. Pensavo di avere gli orecchioni. Sì. Ed è chiaro che avere gli orecchioni a una certa età vanno a insidiare altri organi, e allora ero molto preoccupato. Poi invece stamattina era solo un foruncolo che mi dava fastidio, però durante la notte ho studiato queste giornate di campionato. Perfetto. Ed è uscita, e allora adesso che mi hai provocato, quindi questo vuol dire che l'Empoli perde, che l'Empoli batte l'Inter. No, aspetta. Senti, aspetta, aspetta. Dimmi, adesso dimmi. Che mi avete provocato e visto che c'era una domanda di un ascoltatore, io vi sfido. Schedina. Vai. Bologna Sampdoria Pardo Mondonico. X. 1. Atalanta Palermo. 1. 1. Chievo Sassuolo X 2 Empoli Inter 2 X Genoa Napoli 2 2 Juventus Cagliari 1 1 1 no, volevo essere diverso da Pardo, però hai detto 1 però hai detto 1 non ha neanche un po' di fantasia. Pescara Torino Pescara Torino Pescara Torino tanti gol, posso fare over? No. Pescara Torino 1 non è, dipende da Belotti. Se entra Belotti, altro giocatore dell'Albino Leffe, e stiamo a lasciar perdere quello che abbiamo detto prima. 2 Se non entra Belotti, X. Roma Crotone 1 soffrendo 1 facilmente. Udinese Fiorentina 1 2 da tifoso guai. Chi non dà il favoritismo alla propria squadra. Meraviglioso. Allora, ti faccio sentire... Posso anzi, dire una faccio... cosa? Che la classifica non corrisponde a quello che ci siamo scritti prima, perché tu mi hai detto che l'Inter a 7 stasera vuol dire che perde e il Napoli tu l'hai messo a 11 e poi però hai detto che vince. Scusa, Emiliano è un creativo. Io questa notte ho sognato così. Adesso posso anche aver detto le cose. Io vi ho detto la classifica di questa notte. Il mistero sì, è chiarissimo. C'è la parte nazionale e la parte. Va bene. Tanto io ho scritto tutto, Tu scrivi tutto e ci vediamo tra tre partite. Emiliano, dai, io ho scritto tutto con grande precisione e poi faccio firmare dal notaio. No. Vai sereno. No, aspetta. Firmi anche tu. Voglio farvi sentire Juric, che cosa ha detto a proposito di Sarri e Guardiola. Secondo me veramente lui mi ha sorpreso in positivo, penso che è top in Europa in questo momento, magari insieme a Guardiola, a proprio livello di quando vai a vedere una partita di calcio, scegli o Manchester City o scegli Napoli. E giocano veramente un calcio fantastico, perché sono bravi in possesso, bravi in ripartenze, bravi in fase difensiva, cioè non trovi punti deboli, molto difficile quando prepari le partite, poi sempre trovi, no? Dici no, qua lasciano, qua li possiamo sorprendere, no, tornano veloce, cioè poi hanno una umiltà che è fantastica. Questo era Juric. Io devo chiudere questo blocco. Emiliano, possiamo sentirci domani? Ci diamo un appuntamento pubblico per domani? Io e Pardo saremo a Genova, al Salone Nautico, a spassarcela come i matti. Possiamo chiamarti? E dove ci troviamo? A Genova? Se vuoi venire... Ma va, allora lì l'allenatore è stato un po' ruffiano. Vabbè. Senti, ci sentiamo domani con te, con Pierluigi Pardo, perché abbiamo molti discorsi in sospeso. Torniamo subito dopo il GR. Tutti convocati. Non si fa fatica, ragazzi. Tutti convocati. Vabbè ragazzi, un sacco di carne al fuoco, a parte Raffaele e Marcello che sono già in linea e sono convocatissimi all'800240024 numero verde. Io ho tante cose di cui parlare con Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore che mi ha raggiunto. Ciao Marco. Eccomi, ciao Carlo, buongiorno. A cominciare da quest'ultima ora, Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo dunque, conferma il no a Roma 2024, non ci sono le condizioni per proseguire. Beh, l'aveva fatto già Monti prima, questo è un paese complicato. Personalmente sono dell'avviso che è un grande errore non fare le Olimpiadi, non fare questi grandi eventi, soprattutto quando ci si presenta come il nuovo che avanza, in questo caso il nuovo che frena. Potremmo stare a discutere per ore dei pro e contro dal punto di vista economico, finanziario. So benissimo che l'Italia è il paese delle mazzette, della corruzione, abbiamo vissuto di tanti scandali e chi dice no ha buon gioco a farlo. Però rifiutarsi, tra l'altro in una competizione in cui mai come questa volta l'Italia era abbastanza ben messa, rifiutare a priori significa davvero rinunciare a uno dei pochi volani che poteva permetterci di fare un salto di qualità e dare una spinta all'economia. Insomma, i pro e i contro sono tanti, però a me non piacciono i non pregiudiziali. Io mi porto addosso un sacco di critiche, ma non... ma mi importa relativamente, non sono così distante da questa posizione. Raffaele, buongiorno. Ciao, grazie per avermi convocato. Niente, io volevo fare un intervento su Allegri e sui tifosi della Juve in generale. Sì. Io sono abbonato allo Stadium da alcuni anni. Sì. E niente, Allegri avrà anche sbagliato con Siviglia e con l'Inter, però c'è gente come Mandzukic, a settembre capisce già che quando Conta non gioca. La prima volta che Higuain magari ha mal di pancia, questo qua che atteggiamento ha quando gioca? Ragazzi, magari ma siamo in una prendere. Grande squadra, cioè questi sono discorsi che si possono fare anche per il Real Madrid, Bayern Monaco, Barcellona e tutte quelle che vogliono vincere la Champions League. Cioè non stiamo parlando della squadra dell'oratorio, no? Sì, quello è vero. Però voglio dire, se battiamo Siviglia, che come occasioni le abbiamo avute, e pareggiamo San Siro, pur meritando di perdere, cioè non succede il casino che sono dato fuori. Mm. In generale, i tifosi della Juventus meriterebbero, una buona parte di essi, meriterebbero che arrivassimo decimi 3 o 4 anni in fila, perché non è possibile. Ma no, ma adesso ti spiego il perché. Allora, io ero allo Stadium quando con l'Atalanta, dopo aver fatto 99 punti sullo 0-0, della gente fischiava perché non vincevamo. Ero allo Stadium quando l'anno scorso abbiamo perso 1-0 in casa con l'Udinese e fischiavano la squadra, e quest'anno consiglio, dopo 20 minuti c'era la gente che insultava Dybala. Allora io non posso mica buttare giù nessuno da secondo anello, però insomma no, non ci mancherebbe altro, abbiamo visto volare anche i motorini da secondo anello, basta, abbiamo già dato. Risponde Marco Berinazzo, che è molto più equilibrato, no, di me. No, che i tifosi della Juve sono stati abituati benissimo, per cui mi rendo conto insomma che si tende un po' a esagerare quando la squadra può avere prestazioni minori, però oggettivamente la Juve è una corazzata. Peraltro appena pubblicati i dati approvati dal CDA, secondo bilancio inutile, 4 allora, milioni, record storico dell'Italia con 387 milioni di fatturato. Si profila anche un terzo anno grazie alla mega plusvalenza Pogba di fila, che lo ricerco, inattivo. Eccolo qui, il CDA della Juventus ha approvato il bilancio al 30 giugno 2016, fatturato 387,9 milioni, record storico della società e record italiano, utile 4,1 milioni di euro, secondo anno di utile consecutivo, fatto che non ha precedenti negli ultimi 15 anni. Prospettiva sulla stagione in corso, probabile risultato netto in utile, se tali previsioni fossero confermate, si tratterebbe del terzo utile consecutivo, evento mai accaduto nella storia della Juventus, eccetera. Beh, credo che questo sia importantissimo, anche perché la Juve si avvicina ai 400 milioni di fatturato, siamo ancora lontano dal vertice europeo dei 600 milioni di fatturato di Real, Barcellona o Manchester United, ma si comincia a ragionare. Ricordo che il fatturato della Juve fino a pochi anni fa era intorno ai 200 milioni, mm-hmm. e quindi una crescita esponenziale di cui va dato merito alla dirigenza Agnelli, Nedved, Marotta, Paratici. Benissimo. Marcello, buongiorno. Eccomi, buongiorno, grazie per avermi convocato. Volevo, sono di posto del Napoli. Volevo dire una cosa, secondo me questo campionato qua seguirà un po' la falsa riga del campionato precedente, cioè la Juve che ci fa sperare fino a gennaio-febbraio per poi prendere il largo. Penso che noi lotteremo con la Roma per il secondo posto, poi un po' dietro Inter, Sassuolo, Milan e Fiorentina. Voglio sapere anche tu che ne pensi e se magari quest'anno possiamo sperare un po' di più. Io penso che la Juventus vincerà lo scudetto senza grandissime difficoltà, ma Marco Berinazzo è un tifoso del Napoli come te. Beh, non mi induce questo a fare previsioni diverse. Oggettivamente, insomma, siamo su piani diversi. Il Napoli, per esempio, ha un fatturato strutturale di 130-140 milioni, che potrà crescere con la Champions, ma insomma, siamo a livelli abissali di distanza, come Sarri sottolinea spesso. Non che il calcio non possa vivere di favole, l'Ester ce lo dimostra, ma chiaramente si creano, diciamo, dislivelli tra squadre a livello di rosa, di potenziale dell'organico, che determinano sul lungo periodo, come un campionato di 38 giornate, insomma, una candidatura più che forte della Juve al titolo, e dopodiché, insomma, per il secondo posto non sottovaluterei l'Inter rispetto a quello che è la forza, insomma, del Napoli e della Roma. Certo. Altro argomento per cui ti ho convocato, Marco, ci sono queste notizie che arrivano e che sono state smentite di false documentazioni riguardo all'acquisto del Milan. Sì, ti passo le agenzie che sono state, sì, le ho viste stamattina, le mi hanno molto bene, come dire, sollecitato per questa notizia di Bloomberg che ha mandato un po' in agitazione i tifosi del Milan nell'ambito di una trattativa che sta andando avanti, come raccontiamo, che però col fatto, insomma, che non ci sia, per esempio, al momento ancora una completa disclosure sui nomi degli acquirenti, dei dubbi sempre li lascia, o comunque dà adito a questo tipo di valutazioni. Nel caso specifico si tratta, o si tratterebbe, usiamo il condizionale, di un documento contabile, un estratto conto di una delle società che faceva parte della cordata, della precedente cordata di Galatioto, che farebbe parte anche dell'attuale cordata, che a dimostrazione della propria solidità finanziaria avrebbe presentato questa, una sorta di estratto conto, mettiamolo così per semplificare, rilasciato da una banca che però avrebbe smentito di averlo rilasciato. Ora la Fininvest non conferma di aver ricevuto questo documento, e comunque la cosa fondamentale è che, estratto conto o non estratto conto, questi signori hanno messo nelle mani di Fininvest già 100 milioni, e questo, insomma, è una garanzia delle buone intenzioni, della solidità. Sì, ma cosa significa questa documentazione? Beh, è una parte, diciamo, di tantissimi dossier che tutte le parti coinvolte hanno fornito al venditore per dimostrare di avere i soldi per comprare e fare l'affare. Uno di questi documenti, ripeto, non sarebbe veritiero. Per Fininvest, che non conferma, ribadiamo, di averlo ricevuto, non è stato comunque fondamentale per verificare la solidità di questi soggetti, perché si è affidata ad alcuni advisor che operano sul mercato asiatico, quindi operatori di borsa che operano sul mercato asiatico, che hanno garantito la solidità delle società che fanno parte del consorzio, e quindi, diciamo, il problema non si pone in quest'ottica. Perfetto. Salta incontro tra Malagò e il sindaco Raggi, delegazione Roma 2024 se ne va dopo 35 minuti di attesa. La sensazione è che di Roma 2024 non si farà nulla. Beh, devo dire, questo è un ultimo ora, che sto leggendo insieme a te. Neanche, come dire, aver ricevuto il comitato mi sembra, insomma, anche una mancanza di stile, un'amministrazione che aveva invece su questo campo, su questo terreno, la possibilità di dare un colpo di coda, di mostrare tutta la propria capacità, di recuperare dalle difficoltà che ha attraversato in queste settimane. È troppo, troppo semplice dire no e basta. È un errore che ha fatto Monti, è un errore che sta facendo la Giunta. Peraltro si pongono anche tutta una serie di problemi, anche di danno erariale, perché la Giunta, anzi l'Assemblea Capitolina sotto la Giunta Marino, aveva dato il sì ai giochi. E anche se cambia la giunta, esiste un principio di continuità nell'azione amministrativa che fa sì che ora, che se si cambia idea, ci deve essere una nuova delibera, e comunque lo Stato ha anticipato una ventina di milioni per come dire, lavorare sul progetto, sulla promozione della candidatura, e questi soldi, come dire, probabilmente c'è un parere di un avvocato che il CONI si è fatto rilasciare, per quel che può valere, però è indicativo del fatto che Roma potrebbe essere chiamata a restituire questi 20 milioni che sono stati spesi, e questo fa parte, insomma, di una come dire, di un cortocircuito che si è creato su questo evento, su cui, ripeto, la discussione è aperta, sono pro e contro, va considerato tutto. Bene, però i mi no sembra pregiudiziali, che oggi i giochi siano stati chiusi, no? Sì, praticamente se non c'è l'appoggio del comune, della giunta e dell'assemblea del comune, della città che si presenta come possibile candidato a ospitare le Olimpiadi, tutto il dossier cade, e quindi avranno la meglio Parigi o Los Angeles. Benissimo. Marco Albia, buongiorno. Buongiorno, salve. Tifoso della Juve. Tifoso della Juve. Avrei una nel domanda basket, di... Nel basket... Mi sente? Sì. Tifoso della Juve nel calcio, nel basket? Ma nel basket in Italia non seguo. Diciamo che in America tifo i Boston Celtics. Ma come non segue? Cioè non seguo nel senso che non sono tifoso. Mettiamola così. Sono stato contento quando ha vinto il campionato la Dinamo 2 anni fa, però non perfetto. Sono perfetto. Allora saluti Mio Sacchetti, che è in linea con noi. Buonasera e complimenti per il lavoro che ha fatto a Sassari. Ciao, a Sassari e per tutta la Sardegna, diciamo. Bravo, vabbè, io bravo Meo, per Sassari e per tutta la Sardegna, perché era come insomma il simbolo di una di un'entità che andava molto oltre i confini di una città, no Marco? Sì, beh, cioè, io poi sono del nord Sardegna, quindi non conosco come che seguito avesse al sud la Dinamo, onestamente. Vabbè, poi ne parlo dopo, dica. Comunque, visto che c'è anche il coach che è per un basket molto offensivo, io sono per un calcio offensivo. Quindi io detesto il 5-3-2 come modulo, perché alla fine non è un 3-5-2 secondo me, è un 5-3-2 se giochi con 5 difensori. Sì. Vorrei capire come mai in Spagna si può giocare col 4-3-3 con due terzini offensivi e in Italia non si può fare. Il Barcellona gioca con tre punte che non tornano, in Italia non si può fare. Ventura addirittura dice che non convoca Berardi perché non è compatibile col 3-5-2 o 5-3-2. Per me è una follia. E infatti in Europa non si vince niente. Poi la Juve secondo me ha i giocatori perfetti per giocare col 4-3-3 o il 4-4-2, 4-3-1-2, lo chiamino come vogliono. Mi ma è venuto... io ad esempio Chiellini Marco, non lo farei mai giocare perché venuto... si gioca con un uomo in meno. Chiellini io lo farei sempre giocare, mi è venuto il mal di testa con tutti questi numeri. Meo Sacchetti ha scritto un libro che è in uscita in questi giorni. Il mio basket è di chi lo gioca, non è di numerini. Lo so, però il calcio è un po' diverso. Il calcio abbiamo 60.000 tecnici, perciò è un po' diverso. Nel basket ne abbiamo anche noi, ma non a quei livelli lì. Sì, ho capito Meo, però lo sport è sport, il basket è di chi lo gioca, il calcio pure, quindi... Sai, voglio dire... Sai, quando io comincio a sentire discorsi di numerini 5-3-2, 4-3-2, 4-4-2, 6-8-1, la bizona di Lino Banfi, eccetera, eccetera, a me un po' viene il sangue agli occhi, però questione di gusti e poi porto pazienza. No, beh, ma io penso che ci sia diversi modi di giocare a calcio come a pallacanestro. Mi sembra che Guardiola giochi in una maniera, Conte in un'altra, Mourinho in un'altra e Ancelotti in un'altra, però certo. Sono stati vincenti tutti. Penso che non esista un modo unico di giocare. E poi l'esempio è stato lampante in questi personaggi che sono allenatori di successo e hanno vinto. Non mi si venga a dire che Guardiola, Mourinho e Ancelotti giocano in questa maniera. Devo chiedere una cosa io al coach. Ma come no, Marco Bellinazzo? Una curiosità, magari una stupidaggine, però ecco, per un grande tecnico di basket sarebbe facile o difficile allenare un club di calcio, cioè passare a un altro sport, ma avendo come dire, una preparazione che, come è noto, insomma, per i tecnici di basket è molto alto. Ma sai, è un discorso molto, molto difficile. Non ci sono stati esempi, bisognerebbe forse provare qualche volta a vedere se uno riesce ad entrare dentro in questo discorso di ha fatto la diagonale giusta. Tanto sento questo e sento ha fatto la diagonale giusta. 4-3. Io penso che una squadra di alto livello possa avere delle possibilità di giocare anche diversi moduli. Sicuramente sono giocatori adattati a fare. Io non sono un esperto di calcio, ma voglio dire, adesso si parlava di quelli del Barcellona che non rientrano mai in difesa, però mi sembra che l'Inter abbia vinto una Coppa Campioni, come la chiamo io, e tutto con Eto'o che ripiegava fino nella sua area, e io sono un tifoso del Milan, perciò voglio dire, mi sembra molto... Non dobbiamo essere tutti uguali, sarebbe brutto che fossimo tutti tutti uguali, è giusto che ci sia qualcuno che la pensi in un altro modo. Bravo Meo, senti un'ultima cosa. Il libro mi è arrivato oggi, Meo Sacchetti, Il mio basket è di chi lo gioca. Devo ancora leggerlo, non ho ancora letto neanche l'introduzione. Cosa trovo? Bah, trovi la storia di un ragazzo normale che è detto, avuto... detto che io classe 68 ti ho visto giocare nella Belloni Torino, ti ho visto vincere medaglie con la nazionale italiana... ci conosciamo, so tutto di te. Cosa trovi in questo libro? Ma trovo qualcosa di me che l'ho portato dentro nel libro per far capire che innanzitutto fare uno sport come ho fatto io è una cosa bellissima, cioè voglio dire arrivare a giocare e poi alla fine arrivi a giocare, allenare uno sport che facevi senza che ti davano i soldi, adesso ti pagano anche, perciò devi essere ancora più contento. Poi ho sentito parlare di Olimpiadi, io ne ho fatte due, penso che il massimo per un atleta sia partecipare alle Olimpiadi, al di fuori di vincere scudetti o vincere coppe, perché l'esperienza delle Olimpiadi per un atleta è stare a contatto con atleti che vedi solo in televisione, c'è un'atmosfera completamente, completamente diversa e finché uno non la prova non riesce a capirla, e questo penso che sia la cosa che mi porto dentro da un passaggio che ho fatto così da un ragazzo che ha iniziato a giocare a pallacanestro per divertirsi, che aveva dei sogni e alla fine gli ottimi. E alla fine quel podio di Londra è una delle fotografie che io ho gelosamente custodito con quella tuta azzurra con la banda orizzontale bianca. Perché Londra era nel 2012. Mosca 1980. Eravamo molto più giovani. Sì, eravamo tutti molto più giovani. Ti voglio bene, ciao Meo. Ciao, arrivederci. Ciao, ciao. Allora, sai cosa viene dopo tutti i convocati? Beh, c'è Enrico Ruggeri. Certo che c'è Enrico Ruggeri. Ciao Enrico. Buongiorno. Buongiorno ciao, a lei. Buongiorno a tutti voi. Cosa racconti oggi? Beh, oggi racconto, a me piace raccontare storie controverse a doppia chiave di lettura, e questa è una storia che ha parecchie chiavi di lettura. Un grande campione che poi si diventa, chiama Paolo Di Canio. Che si chiama Paolo Di Canio, che poi diventa, che già quando gioca a pallone divide, perché per esempio fa un episodio per il quale gli danno 11 giornate quando spinge un arbitro che goffamente cade a terra, e invece poco tempo dopo compie forse il più grande gesto di fair play compiuto in campo da un giocatore. Fermando quel pallone con le mani. Ferma con le mani un pallone, cioè, per far soccorrere un portiere, un pallone che probabilmente avrebbe potuto spingere in rete. Quindi già lì, insomma, un uomo dalla doppia faccia. E poi fa il commentatore televisivo, è secondo me in assoluto quello che ha più titoli per parlare di calcio inglese, uno che se ne intende, uno che ti appassiona. Assolutamente. Ha davanti a sé una fantastica carriera di commentatore di un calcio che lui conosce, di un calcio che a lui piace, perché è simile a lui, calcio virile, e molto, come dire, combattivo. E poi però succede un episodio che ne interrompe la carriera, spero temporaneamente, no? Fa un collegamento con la maglietta e sulla bicipite c'è un tatuaggio che ovviamente non piace a molti. Il mondo scopre l'acqua calda, perché insomma le simpatie il mondo di destra, scopre l'acqua calda, esatto. Le simpatie di destra di Paolo Di Canio non mi sembra fossero misteriose. Che no, ci ricordiamo saluti romani, ci ricordiamo un sacco di episodi, e soprattutto io e Marco Beninazzo stiamo qui e tutti gli ascoltatori di Radio 24 stanno qui a raccontare Il falco e il gabbiano e la storia di Paolo Di Canio, raccontata da Enrico Ruggeri, tra pochissimo. Ti abbraccio, ciao Henry. Un abbraccio a tutti voi. Ciao. Marco, ci sentiamo la prossima volta per parlare di Pisa. Abbiamo tanti argomenti. Mamma mia, abbiamo sempre troppo poco tempo. E troppo poco tempo, dovremo allargare questa trasmissione. Sì, ad infinito. A presto. Ciao Marco Berinazzo, grazie anche a Giorgio Ruga, nostro autore, a Gianmarco, no, Gianmarco Ferronato, non c'è, c'è Filippo Aureggio oggi in regia, Alvise Falzoni in redazione, sentiamo domani alle 2, ciao.